Benvenuti al podcast di Noi Media. In questa puntata sentiremo come si fa a leggere un sito web utilizzando un vocalizzatore di schermo, cioè come sentono l'internet le persone cieche. La registrazione è stata fatta a casa del signor Gabriele Ghirlanda, che ringrazio per la sua pazienza con il mio sconcerto davanti alle voci del vocalizzatore. Abbiamo scelto di navigare nel sito della città di Bellinzona. All'inizio sentirete il vocalizzatore alla velocità in cui la usa abitualmente il signor Ghirlanda, poi dopo lui rallenta il vocalizzatore perché sia comprensibile ai non ciechi, non allenati. E sentiremo prima, letto in questo modo, il saluto del sindaco di Bellinzona. Troverete il link nella scheda della puntata. Poi alla fine il signor Ghirlanda rimette il vocalizzatore alla sua velocità abituale per farci sentire come lui in realtà sentirebbe questo discorso del sindaco. Buon ascolto. www.bellinzona.ch cerca con Google editazione, cerca con Google editazione, città di PC virtuale, home, vuoto, visitato link grafico città di Bellinzona, vai alla home, vuoto, grafico Nano, vuoto, home mouse over link grafico, vuoto, grafico Nano, vuoto, home mouse over link grafico numeri di emergenza, home mouse over link grafico link utili, home mouse over link grafico gallerie foto, home mouse over link grafico rubrica indirizzi. Potrebbe provare a farglielo ridire più piano? Sì. HTTP /www. degli strumenti vuoto grafico Nano vuoto grafico Nano cioè come grafico oppure vuoto grafico Nano vuoto visitato il grafico città di Bellinzona vai alla home non è scritto sì sono vuoto le informazioni alternative descrizioni di immagini descrizioni dice che quindi vuoto visitato il grafico città di Bellinzona vai alla home Visitato link grafico città di Bellinzona vuoto grafico Nano vuoto grafico Nano vuoto home mouse over link determina grafico anche numero se di emergenza se ho già visitato un link lo ritrova ecco ma sento molte cose che dicono layout grafico senza sì. nessuna informazione in home realtà mouse over link grafico sì, link utili possono home mouse over link grafico gallerie link fotografiche grafico. Dice link grafico. Home mouse over link grafico se posso rubrica togliere indirizzi. queste informazioni ogni tanto le attivo ogni tanto, dipende se mi servono Home mouse over link grafico come raggiungere Bellinzona Home mouse over link grafico richiesta informazioni Home mouse over link grafico mappa del sito credo che forse tabella con tre colonne potremmo apparire interrompere e lei potrebbe spiegare appunto forse quello che è successo no? Quindi le voci che abbiamo sentito che tipo di informazioni davano? Allora, la sintesi legge il testo a schermo, delle informazioni alternative sue, e poi legge i link, legge quello che sta sotto il link, cioè se non c'è il testo. Grafico vuoto, vuoto, grafico line ottimale, vuoto, vuoto, grafico line ottimale. Non c'è Sì. niente. Vuoto, benvenuti sul sito della E città di perché dice Bellinzona. vuoto? Perché c'è un testo A vuoto. Sì, qui ho messo, perché mi dice anche le righe vuote, ma Vuoto. potevo anche lasciarlo. Anche questo si può attivare, disattivare, adesso è attivato. Se io stavo sistemando un testo, allora mi interessava di sapere. Possiamo sentire forse il saluto del sindaco? 34 link, tabella con 3 colonne e 7 righe, città di Bellinzona. Grafico line ottimage, grafico line ottimage, grafico freccia menu, PC virtuale, tabella, la città di Bellinzona, vuoto, saluto del sindaco, vuoto, grafico line ottimage, grafico line ottimage, vuoto, care e cari concittadini, l'incessante evoluzione della tecnica in sano e intelligente proposito di far uso di ogni strumento per migliorare il contatto e l'informazione è onesta, il rapporto delicato e fondamentale, franchezza e autorità hanno spinto la città di Bellinzona ad affacciarsi su internet con un sito totalmente rinnovato, Bellinzona, città capitale del cantone Ticino, con un passato di grande rilievo nella storia, con un'immagine radicata quale sede di amministrazioni pubbliche caratterizzata da una vita socio-culturale equilibrata con dei contenuti monumentali che hanno sempre marcato Bellinzona, una metodica e costante attenzione dedicata all'importante patrimonio, castelli, chiese, centro storico, teatro sociale, lo sviluppo delle strutture di servizio, il rifiorire di un'attività culturale e ricreativa di indiscutibile livello hanno richiamato sulla città un interesse crescente da secondare e stimolare la rispondenza della popolazione ai dubbi e l'amministrazione comunale va da locomotiva a questo positivo positivo processo. È giusto perciò comunicare e informare, suscitando anche la collaborazione del cittadino utente attraverso i suoi suggerimenti, suggestioni e critiche costruttive. Questo strumento di comunicazione e di informazione, agile e flessibile, è indirizzato al cittadino, come pure a chi Bellinzona ancora poco appunto conosce e vuole quindi avvicinarsi. Sono convinto che una simile, nuova e moderna finestra sarà gradita e apprezzata. Navigatori, dunque, avanti tutta. Il sito è vostro. A Brenno Martignoni, sindaco della città di Bellinzona, gennaio 2006, Bellinzona. Sì, chiaro che lei poi lo sentiva alla velocità di prima, poi. Sì. Che significa una concentrazione molto forte, cioè... No, ma cioè, si abitua, non ci si... Anzi, io non uso mai questo, spesso... Se ho un lungo testo. Saluto del sindaco grafico Laio Timage. Grafico Laio Timage. Care essa, indessa, indessa, il rapporto, essa, il rapporto delicato e fondamentale, essa, il rapporto delicato e fondamentale, partenza e poetano, spinto la città di Bellinzona, la città di Bellinzona, città capitale del canto del cibo, un passato di grande rilievo della storia.